mafia e picciotti donuri. Io mi domando per chi spargiti sangue e dolori, e mi vestite a così, e maledito il giorno chi mi bruciava la morì. Ciato di sto me cuore, curcato d'incia sticeri, mafia e picciotti donuri, quando passati di ca sentiti sempre un lamento, ma non provate pietà, chiancio e mi scianco i capiti e non c'è notte e né giorno che non menzogno a stu figlio, e carne non hai più.